ha sempre ringraziato. Ringrazierò per sempre chi in me ha sempre creduto, chi lo fa da quando sono nato. Grazie con il cuore pure chi per qualche motivo non si è mai accostato. Ho sempre ascoltato chi mi dà un parere, partendo dal barbiere, innalzate tante di barre per le mie barriere. Altro che muro di Berlino, il mio vicino è dittatura. Frate, vuole che spengo la musica. Il tuo commento sto ascoltando solo se è un commento costruttivo. Il meglio è dentro, uso il mio scheletro come indumento. Togli tutto dall'armadio, dei besti inside. Di cazzo di strumento e cazzo di ringraziamento. Turbe giovanini, sesso, droga, rap, rolla, ferilli. La vita è bella, benigni, benignamente guardo confuso. In che stato sono, chi è stato, che è stato, che è stato. The best inside. The best inside. Te la porti dentro. Se tu hai la porti dentro in ogni momento, la cosa meglio te la porti dentro. Non dimenticarlo, sei tu la cassaforte di te stesso. La cosa meglio te la porti dentro. Se ce l'hai avuta a fianco per qualche momento, la cosa meglio te la porti dentro. Se stai su un palco appartato in un appartamento. È dentro, me lo porto dentro. Lo custodisco come fosse il piano di un esperimento. Fuori solo cazzi, turbamento. Dammi un momento a esalare l'atmosfera satura di sto locale. La cosa meglio te la porti dentro. Che sia una donna, che sia tu stesso, che sia tua nonna. Ma nessuno ti dirà la verità, perché all'esterno c'è l'inferno. L'inverno di proporzioni umane, quindi freddo. Cercare una vita intera, amore infinito, eterno. Quando the best di ogni individuo è dentro. Cazzo stiamo per insieme per l'eterno. Sarebbe bello, life is now. Cogli il momento, il nome è Monello. Ah, up, the best is inside. Fuori dalla mia vita, the best is inside. Testimoni di un messaggio, the best is inside. No, man, slam, the best is inside. Fuck yourself. Te la porti dentro. Se tu la porti dentro in ogni momento, la cosa meglio te la porti dentro. Non dimenticarlo, sei tu la cassaforte di te stesso. La cosa meglio te la porti dentro. Se ce l'hai avuta a fianco per qualche momento, la cosa meglio te la porti dentro. Se stai su un palco appartato in un appartamento. Presa, go.